Lei mi chiama sempre, non mi vuole strada ma niente per sempre. Cresciuto R1, sto con la mia gang. Che cosa ti serve? C'è vacchi di verde, sto nel mio rione, non mi manca niente. Lei mi chiama sempre, le rispondo sempre. Mi chiama al contatto, rispondo immediatamente. Mi chiama uno stronzo perché gli serve. Chiama qualcun altro, non vendo merce. Magari qualcuno ci sente, sto solo cantando, non è vero niente. Ho 3 catene, sto brillando come Cersei. Batto tutti nel gioco come Hercules. La cinta Hermes, gioielli malati al collo, sembra che hanno l'herpes. Ho le palle strette dentro i boxer Calvin. Questi rapper fraci sono dei castrati. Mi servono stivali in pelle, cammino tra serpi e guane. Non mi fido di niente, non ascolto queste puttane. Quando arrivo gioielli li parlano, ascolta le mie collane, ascolta la mia fame. Ho già mangiato ma non sono pieno ancora a fame. Voglio un bis, non gli avanzi nel mio piatto carne. Ma la beef con la dark, non azzardarti. Voglio diventare ricco con gli arazzi e cazzi. In casa giro in corridoio i quadri con la mia fascia. 7x3 volte stronzo, sai che fa 21. Tipo 7 come noi davvero non c'è nessuno. Lei mi chiama sempre, non mi vuole strada ma niente per sempre. Cresciuto R1, sto con la mia gang. Che cosa ti serve? C'ho i pacchi di verde, sto nel mio rione, non mi manca niente. Lei mi chiama sempre, bianca pure verde, rosa sopra il piatto, sto fumando mele. Gioielli sul collo, sto vendendo neve. Mamma sa bene chi vende per sempre. Sto nelle tasche ma non faccio niente. Fresco al processo, giuro innocente. Bevi davanti a un giudice, sto muto sempre. Se parlo con una droga giuro è soltanto per vendere. Giuro. Lei mi chiama sempre, non mi vuole strada ma niente per sempre. Cresciuto R1, sto con la mia gang. Che cosa ti serve? C'ho i pacchi di verde, sto nel mio rione, non mi manca niente. La gang è per sempre, vivo a Roma centro. Mi vogliono dentro, fumo quella verde. Non mi manca niente, sti croci li schiaccio. Sto con mio zio Tony, cucina la bianca, cucina oro bianco. Stiamo guadagnando, sto con il mio branco. Se pensa ai miei soldi mi si rizza il cazzo. Soldi li faccio, sono qui in tubligare. Soldi dello spaccio, we fan Ferragamo. Stipendi sul collo, troia sono un diavolo. Vendo quella verde, le piazze mi pagano. I tuoi amici mi pagano, sto fumando un mango. 20 sacchi in tasca, sto fumando un albero. Rischiando tanto, la libertà e i soldi, ho 3K sul tavolo. Le guardie lo sanno, ma non sanno farlo. Chiamate FaceTime, ho spostato quei pacchi. Se mi chiami vengo per i soldi soltanto.